faccia un brutto di marmo, che fa della marmista. Ma non trovo c'è un cazzo. Questa non so perché tu smuovi due quadra per te e quattro. Brutto coglio. Amore, ti va via il chiudio. E io c'ho le distrazioni, io sono la successiva. A proposito, già non ho più lì, mi serve. Così c'ho... Così ne approfitto e c'ho il DVD MP3, dai. Tu adesso non posso, sto aspettando che mi attaccano la DSL. Se non posso fare niente. Ah no, passa, ma non posso fare la santo. Ma passi, un giorno, poi due passi te lo riprendi. Vabbè. Ma c'è la famiglia, che fammi? No, c'è il parcheggio, ragazzi. Ti dico che chiama anche a me, se vuoi entrare non c'è problema. Come sono rientrato, Via. La mia cosa l'ho fatta. E poi già c'era Giovanni 500, ti interrava, ragazzi. Porrino. Devo salire un po' sul bello. Perfetto. Il fratello di quello lì che ho messo lo scaldabagno, mi ha fatto fare abbinato, se non mai italiano, me ne scende lo scaldabagno adesso, me ne faccio tutto il muro. Ci ha messo i tassi, siccome il muro praticamente il divisore tra la cucina e il doppio servizio, quindi noi usiamo il doppio servizio. Lo si è visto che sta facendo il bisogno, ma ci capisco se è tra. Tengo un salvamani 80 litri, vieni a fuori, porto la porta. Sono in video che gli ho attaccato la bomba, gli ho tolto la lavandina, e poi lo fai, sta facendo tutto il muro. No, salvamani non vuole adesso, ma dove te l'ha piantato? Nel forattino? Però poi me l'hanno piantato di gravi, ci me l'hanno messo con il cementato. Non c'è più il mosso da lì. Non so, però tassi lì nel foratino, vabbè. Devi fare il buco e incementarle. Incementi bene, possibilmente non molto grasso, insomma normale, dai. Poi lo faccio vedere bene, vedrai che tiene, e di augura se tiene. E così me l'ho fatto adesso. Me l'ho fatto mio padrino che è l'altro. Ma ti devo dire che mi ha fatto un raddito, ha fatto casino. Mi ha fatto adesso la vaschetta, me l'ha messa troppo alta. Mi ha messo per lui per abbustumare. Insomma, ha fatto un lavoro tutto da schifo. Mi ha piaciuto il tuo riesco andare a bagno lì. Ma comunque adesso va bene, adesso non c'è problema. Ma di saluto mi sono assistato, mi da fare il finale. Via. Faccio il cazzarlo. Non gioco da ragazzi, aspettavo a fare da bagno. Ma quanto di cosa, rubinetto, la cassetta dell'acqua, tutto il sifone. È una cazzata, Tante volte ti capita che dipende da come lo piace anche. Io la questione le faccio io a casa. Ho sempre un rubinetto, mi arrangio io. Un sifone, uno scarico, la roba lì. Una cannetta allo scarico. Cazzagazza. Casino è già. Sembra facile, però non è difficile. Secondo come fare guarnizioni si perde. Allora, ieri infatti quando ho messo il flessibile attaccato al muro, non è che ho messo poco teflon, infatti avevano la pressione, funzionava, ma proprio si vedeva appena, ho chiuso l'acqua un attimino. Un bel po', un po' di più, ho fatto un paio di più, l'ho ripiazzato, un bombo, insomma che per te va nel tubo della tua casa, siccome c'è la tua all'esterno, perché lo scartabagno l'ha comprato dalla Francia, perché conservato una 50, e superava questo tubo qua. Questo scartabagno, siccome è troppo lungo, le ha calmato e scocca questo tubo che rimane all'esterno. Scarto sono un po' scansato dal raccordo, proprio per far fare la lì. L'unica cosa qua è smontare il mio scaldabagno, buca di tutta leva, quindi qua c'è un pisca di mare, con l'aio c'è quel bagno. Hanno cercato di coprirsi, ma non facciamo manco il sollevo. Non c'è problema, c'è il spazio. Comunque, anche io già mi arrangio, se sentite così, il mobile del bagno l'ho cercato io, il mobiletto del bagno che l'ho scritto, che l'ho fatto io, quello è un casino davvero a metterlo. Lo so, sono cavolate già, tutto lo dipende molte volte da come fa la guarnizione. È tutto lì, non devi fingere più del dovuto, perché se vai oltre rovini la guarnizione, si perde. Devi fare un paio di giri e basta, altrimenti si mangia la guarnizione dentro, se sei fritto si perde. Ma lì non è solo questa di guarnizione, se devi combaciare i buchi della bambina con i ferri che ci sono nel muro per agganciarla. Poi nella tua mattana un bere dovrà fare che fa scendere l'acqua, vuole variare tutto lì, poi per piazzare quello lì era un casino vero, infatti per monta si è dovuto piazzare. E poi per mettere lo specchio ho dovuto chiamare un amico, perché so ce la facevo, era troppo grande, avevo un po' di caresse, per prendermi lì, ho chiamato un amico e mi ha dato la mano lì. Ma adesso non l'ho fatto lì, mi sia di una manina che dell'altra. Beh, fare una cosa della genere devi essere in due. Oddio, è un po' male. Vabbè. Però via. Mi bisogna lì già per fare la bagni, o per antenne, magari. Ma se vuoi piazzare un'antenna, non so quando, devono chiamare. Non mi capita anche la voletta, non c'è problema. Però la gente non paga, non paga. Allora, se tu chiami un antennista che te è l'antenna, ti di gambellina, insomma sono 150 euro di mano d'opera, 120 gruppi. Mi pare che hanno iniziato le 2,60 perché fai la città di già. Allora, quando è un interrato dipende di meno, quando è sul tetto ti ho molto molto di più. A voi non è che vogliamo di prova aperta l'antenna, già, è facilissimo aperta l'antenna. Il problema è che devi stare sul tetto, devi forare, devi mettere i tasselli, tutti devi organizzare, cioè, per prima cosa ti piazza l'antenna, poi una volta piazzata l'hai filato il palo, fai gli spezzoni, via, metti dentro, già pronta, non fai altro che collegare, mettere i tasselli, infilarci l'antenna, collegare il cavo di discesa, non più che fatto. E poi guarda il controllo, la punta, boh, e la tenne piazzata. La dico. E in parata li tiriamo. Dove ti tiriamo più giù farò? Ma sembra la registrata che stiamo rilassando. Comunque lui, a dirlo così sembra facile, ma bisogna anche saperlo fare, non è che sia, uno che non ha mai fatto vuole fare volata, non intende, vuole dire si deve fare il canale. Vabbè, lo so, ma è facile, fidati. Io non lo chiamiamo l'antennista per fare l'antenna, ma a volte capita che può capitare che non è collegato bene il filo. Può capitare, oppure ha fatto male allo spinocchio, capisci? Piano piano, bisogna pazienza, però piano, qui stai attento, che non tocchi la calza col positivo, con lo caldo, sono tante cose già, però è facile apprezzare, è facilissimo, non è che siano così difficili da apprezzare. È un gioco, è buio, dai, non è che... Allora, la rispalla che devi salire sul tetto. Si apre lì, tu che fa vedere a... Si va a volte da morso. Si butta un metro curioso. Ehi, che cosa si tratta di che cattare sta come io, che è facile. Poi quello che l'ha piattata a lui, altro con l'altro, era l'altro che gli ha messo l'altro. Adesso sul figlio. Maggio. Ehi, Marcio, diciamo che ha i 6 anni, ha 18 anni. Beh, fai prima così. Perché se gli cazzano un'antenna completa, si ribuono tutto nuovo. Faro, staff, tutto, tutto. L'antenna è nuova, nuova. Allora sì che qui è un'antenna, vabbè, l'antenna è sempre nuova, però ci vuole anche il faro nuovo, già. La staff e tutto. No, pare che non sia nuova l'antenna. Guarda che l'ho piazzato qua, cerca che l'ho piazzato, allora tu dico subito, due con Antonio, una piazzatura, una, due, tre, quattro, poi abbiamo piazzato un'altra casa per l'altra di Antonio, e che l'abbiamo piazzato, dai. Questa perché c'è, no, non è venuto per la terra mia, anche se sono arrugini, che sono lì con le massi che murano. Che non lo vuol dire, vabbè, se al limite si può fare così, già scadono i bulloni vecchi e si mettono nuovi. Se la staffa è ancora buona, si può anche, se la usi, dai. Si potrebbe fare mettere l'antenna mia lì, così si vede il simbolo in acciaio, no? No, come c'è l'altro pezzo, come se deve fare la CD, quindi sono in acciaio ripieno. Dov'è il faccio lì? Senza filanti. Si può fare così. Allora, la mia è attaccata alla canna fumaria. Siccome devo lì è forantino, e balla un bel, infatti l'ho dovuta legare con una corda. E se no aspetto da lì, ne cade. Vogliamo fare una cosa, già lo sa. La voglio attaccare al baracchino, sotto il palo del baracchino. Però le sto pensando, un domani io devo fare manutenzione all'antenna del baracchino. E devo, sono costretto a attaccarmi all'antenna della TV, è un casino. Quello sì, ma potresti fare lateralmente un palo scorrevole che tu la puoi abbassare, il bicicletto ne la abbassi, tutto di più come se tu la rialzi. Ok, allora si attacca al palo di sotto, l'antenna della TV, e se devo lavorare l'antenna del barattino, sta col tubo che sopra, no? E si può fare anche così, perché no? Adesso vediamo, allora vediamo un po' se ne riesco a fare una cosetta, perché mi sono un po' strano, sono con le canali altri cazzo di tubo, un bel, una Rai 1. Non riesco, non lo so già. Freddo, meglio andare alla mattina già, meglio andare alla mattina. Dove è stamattina alle 4:30 cito, parti, perché ne detto di magari alle 11 vado giorno, massimo. E lì andiamo anche la mattina a petto. Tu invece la cotta, invece te la mangia, Che mangia anche a presto, ne mangia tutto. Sì, no, oggi la decida la un po'. Questa è una cosa, per un altro. Una sfidata, sarebbe qui. Dipende. Un po' la cosa, ma di un bambino, cazzo, la volta che ho preso la mia, quella là, due chili, rotti, cazzo, stava mangiando un bambino. Quando ho fatto quella che sono era molto grande, poi non ho più mangiato. Stavo sempre allo stesso punto. Stava mangiando un bambino, tra l'altro l'ho buttato qui, c'era il branco, già con perché. Infatti la prima l'ha presa a Franco, tutti le due o le tre era. Mi stava toccando a me. Tra l'altro un contento. Sarei una bigliata. E diciamo che con le canne di Franco stava un po' più tranquillamente. Ma non mi ha dato mattana, Fabrizia. Stavo piano, gli video, adesso ci avrò messo 5 minuti, 7 minuti a levarla fuori. Magari se la mandi in bulia, non ti dà problemi, se la arrivo così morta. E avrei un trucco, è come due secco, avessi già cantata, c'era la pizza con gli ami, quelli miei in coso, in carbonio, stavo con buoni inizi. Ce li ho anche io, quelli secondo me sono meglio di quelli in acciaio, se fossero stati in acciaio quelli sarebbero stati una canovata. Ma sai cosa c'è? Che se fanno più la fattura te li piega. Ripiglia, a te la pezza non ti piace. Tu, nel zero porto zero, cazzo sta bloccando. A me? Mi hai fatto vedere questo tipo di cazzo. Ti diavolo che ci ha piegato la leorana. E la fatica conservata. Dipende da cosa prendi già. Dipende da come dà il colpo. Da come li spacchi la lentiera, anche quello, qua c'è una grossa cazzo, e strappito un po' forte, si crepano gli altri. Vabbè, no, è una razza che te l'aspetta, se è una razza grossa, e come se il palazzo grosso ha fatto un corso, no, se lo schiaccia come fa con le coppe. No, già la vende un bella vista. Io mi assillavo a fare le pompette di cose, con il pilastico, ora mi ho fatto un pilacciolo già 7 anni ormai ho legato, uno vicino all'altro. Aspetta, come è andata? Non ho rubato ancora. Ma lui va bene per volentieri. Così lo facevo io quando ero in mano. Aspetta un attimino, si prende l'aria Massimo. Ehi, aia. Modromendi, altro che riprendi, Mi stiamo prendendo la strada del letto. Oh, già. Ehi. Cazzo, quel numero ce l'avevo prima io. Sì. 33, 42, 33, 56. Ma ho staccato quest'anno. Cazzo, l'hanno già venduto l'anno. Perché prima era... diceva che il numero è inesistente. E adesso... è... come si dice? L'hanno riattivato. Per carità. Che è scaduto che non è con caricata. Un anno era, più di un anno. Allora dopo un anno è solo Yeah. questo va qua. Quello che mi ha servito fra casa. Sei già. Sì, e chi è quello che mi ha venuto fra casa? Prova, vedere un po'. Prova, ma ti costa niente. Ma voglio comprare pure un bicchiere. Ma il microfono qua. Normale. Tu di chiuro costa. Se no, mi chiuro pure. Ma la mia confronta adesso che non faceva una. No, aspetta, lui ti va a fare un po'. Sta vendendo Giancarlo 12 euro. 12 euro mi pare, o 22 euro. Non lo so se lui vende Giancarlo, ma questo... Cavagava. Formaggio che poi va a me, mi è durato un bel

Diciamo che sei molto comoda con la macchina, scusi, se la macchina laterale, con la sta bene. Siamo stati un filmati, siamo... Abbiamo finito, siamo arrivati a Ossiglia, ci siamo fermati per... mettere le maglie, cambiare la quaglio libre, questo qua. Ma che stava bene, si rivale, un cazzo, mamma mia, dove c'era subito dal bar, dove vai, giusto, siamo molto comodi, va troppo bene, tu devi camminare, abbiamo perfetto, allora siamo le curve, io volevo fare le curve, mamma mia, sono la mia voce, le uso. Questo è un cavallo di fiducia, cioè quando devo viaggiare non mangio, perché mi viene mal di stomaco, come si sa, però non mangio niente, cioè non abbiamo mangiato, non mi ha fatto tutto niente. Anche se mi sapeva mai ieri. Sabato, ho finito alle 4:30, e anche quelli sono volato solamente domenica e poi la settimana piena. Io di sabato finisco alle 7:30, caro, quando mi va bene, alle 7:30 di sera. Molte volte si lavora anche il sabato, si lavora anche la domenica. Adesso specialmente la festa di Natale, fa poco. Io di domenica non so cosa mi dire. Ma cambiato è lui. Un attimo un casino mattino. Prendi il microfono e parla. Tu busca la vostra dolore. No, poi il microfono si trova benissimo, bene. Va. Però lasciamo il parcheggio. Caricare. Poi con le cuffie si sente di più. Non attacca le cuffie, no? Non si sente niente, ma con le cuffie si sente un bel. Va bene, a domani allora. Ya, ce la facciamo una scappata sul 15. Ah, io se c'è la gente ce la faccio. E io? No, dai, ci sentiamo domani, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Ciao, Daniele. Ciao, Daniele. Ciao, fate le risate con Cavallino, Bertolini. E via, palmetto. Palmiro. Ah, Palmiro, burro, ha chiamato. Pallina, palmetto, palmiro. Palmiro. Tutto pure col suo nome, ragazzi. Ciao, Daniele.